Linee d'ombra di Matteo Caccia. La rabbia è stato l'effetto di un vulcano che è lì a un certo punto esplode. Ecco, io sono esplosa. E così è accaduto che una di queste ragazzine, di cui non ricordo né il nome né l'aspetto, mi ha sbattuto in faccia la verità. Storie di madri problematiche e di donne coraggiose in una puntata che si intitola Discriminate. Sono al fianco di chi soffre umiliazioni e oppressioni per il colore della sua pelle. Hitler e Mussolini avevano la pelle bianchissima, ma la coscienza nera. Martin Luther King aveva la pelle color dell'ebano, ma il suo animo brillava della limpida luce come i diamanti che i negri oppressi estraggono dalle miniere del Sudafrica per la vanità e la ricchezza di una minoranza dalla pelle bianca, di una minoranza dalla pelle bianca, di una minoranza dalla pelle bianca, di una minoranza. Questa è la voce di Sandro Pertini, l'avrete riconosciuta, che racconta quello che in qualche modo vogliamo raccontare in questa puntata. Io questo pezzo l'ho sentito per anni quando ero un ragazzino che apriva una canzone di Frankie Hi Energy, motivo per cui, come capita con le cose di cui sei fan, poi le impari a memoria, ti entrano nella testa e non ti escono più. Sono delle parole come le poesie che impari a scuola, ma con la differenza che queste le ascolti invece che leggerle e diventano appunto un piccolo pezzo della tua memoria. Abbiamo aperto con questo piccolo monologo questa puntata di Linee d'Ombra che si intitola Discriminate, perché insomma, lo sapete, noi non facciamo informazione, non facciamo approfondimento, noi raccontiamo storie. Cerchiamo però, attraverso le storie, in alcuni casi, in alcuni momenti importanti, di provare ad illuminare meglio quello che succede durante la nostra vita quotidiana, soprattutto per quanto riguarda le notizie che arrivano da fuori all'interno della nostra vita quotidiana. Proviamo ad illuminare meglio quelle storie, quelle notizie, attraverso delle altre storie, e oggi lo faremo attraverso la storia di un'ascoltatrice, come sempre succede, e poi con una storia invece che arriva da New York, che parla di discriminazione razziale molto molto pesante. Stiamo parlando di un'epoca in cui i tram erano trainati da cavalli, ecco, quindi insomma molto prima di Rosa Parks, che era la donna che nel 55 si era rifiutata di alzarsi per lasciare un posto su un autobus ad un bianco ed è diventata il simbolo della lotta alla discriminazione. Ecco, molto prima di lei c'è stata una signora che si chiamava Elizabeth Jennings, e oggi vi racconteremo la sua storia. Prima di partire però, se vi capita, se per caso voi insomma conoscete bene l'inglese, purtroppo ancora i sottotitoli non ci sono ma arriveranno, e vi interessa l'argomento, sappiate che venerdì scorso, o meglio due venerdì fa, è successa una cosa abbastanza a sorpresa, ed è che un comico americano che si chiama Dave Chappelle è probabilmente è il miglior comico americano che c'è in questo momento in giro negli Stati Uniti a fare quella cosa lì, cioè a fare la stand-up comedy. Dave Chappelle ha la pelle nera, non si esibiva da diversi giorni, appunto per via dell'emergenza sanitaria, e ha deciso però invece di farlo. Ha deciso di farlo dopo quello che è accaduto negli Stati Uniti, e ha rilasciato uno speciale. Negli Stati Uniti funziona così: uno fa uno spettacolo, di solito fa dei live, e poi a un certo punto fa uno special, cioè fa un episodio speciale che va in onda o su HBO o sulla TV, sul TV via cavo, recentemente su Netflix o su Amazon, insomma, quello speciale è una sorta di resoconto dell'anno, e più o meno i comici ne rilasciano uno all'anno. Lui invece l'ha rilasciato direttamente su YouTube, quindi è gratuito, si chiama 8:56, perdonatemi, 8:46, che sono il minutaggio esatto al secondo del tempo che George Floyd ha impiegato purtroppo a morire in quell'immagine che ormai conosciamo tutti quanti molto molto bene, che abbiamo impresso nei nostri occhi e nella nostra memoria. Ecco, Dave Chappelle ha fatto questo spettacolo all'aperto in Ohio, con tutte le i parametri di distanziamento, le sedie sull'erba a distanza regolare una dall'altra, lui da solo sul palco, e ha fatto una cosa che nessuno si aspettava, cioè ha fatto uno spettacolo che non fa ridere. ha fatto un comico, ha fatto uno spettacolo senza battute. Ha raccontato storie di discriminazione e lo ha fatto in una maniera molto raffinata e molto interessante. Quindi se vi interessa l'argomento, se avete voglia di vedere un grande comico fare uno spettacolo in cui non fa ridere, e lo dichiara proprio, andate a vedervi 8:46 di Dave LaChapelle. Racconta storie e lo fa in maniera magnifica. Altrimenti rimanete qui, noi continuiamo a raccontare, continuiamo a raccogliere le vostre storie, lineadombra@radio24.it, e cominciamo dalla prima, una storia di discriminazione dovuta non al colore della pelle in questo caso, ma al fatto che tua madre è un po' diversa dalle altre madri. La prima volta che ho dovuto accettare una realtà che non volevo accettare, seppure l'evidenza me lo imponeva, ero piccola, troppo piccola per riuscire a vedere che cosa accadeva in casa. E poi come si può ammettere una cosa quando questa cosa coinvolge l'affetto più caro? Come potevo ammettere che la mia mamma avesse un problema, quel problema? Come potevo ammettere il sentimento di dolore che provavo quando capivo di che cosa gli adulti parlassero? Dopo la mia prima volta sfociata in un gesto di aggressività, ci sono voluti moltissimi anni perché io riconoscessi e raccontassi ad un'amica quello che ho sempre voluto tenere nascosto nel profondo del mio cuore. Ero una ragazzina non complicata, complessata, perché ero magra oltre ogni limite, orecchie grandi, orecchie da dumbo l'elefante che vola, con le treccine, e la mia mamma cercava di coprirmi con le trecce l'effetto orecchie, timida come sono di carattere, che diventa aggressiva quando è toccata nel vivo, però fondamentalmente era una ragazzina timida. Mi sentivo in difficoltà, non capivo perché mi sentissi così in difficoltà, dopo l'ho capito, ma avevo sempre questa sensazione di non essere adeguata. Ora riesco a parlarne, anche se finora ne ho parlato con pochissime persone e non mi sento più in colpa nell'ammetterlo, come se questa fosse stata una colpa della mia mamma e di conseguenza una colpa mia. Ora che non solo sono mamma, ma anche nonna, il tempo ha mitigato i ricordi dolorosi e mi ha fatto comprendere le motivazioni di questa presunta colpa. Ora ne posso parlare con semplicità. Sono nata e cresciuta in un paesino della Lunigiana dove tutti si conoscevano, tutti sapevano tutto di tutti, dove era impossibile mantenere il benché minimo segreto, dove c'era moltissima solidarietà, ma anche inevitabilmente un sacco di pettegolezzi. Dove gli adulti, quando parlavano di argomenti non adatti a orecchie di bambino, abbassavano la voce, ma dove, da che mondo è mondo, i bambini captavano questi discorsi. Al mio paesello passava la corriera due volte alla settimana, con destinazione il paese più grande, distante 7 chilometri, in occasione delle giornate di mercato. Nessuna famiglia aveva l'automobile e i più ricchi possedevano una bicicletta. Per cui, finita la scuola elementare, è stato necessario che io andassi in collegio per poter frequentare la scuola media. Like an animal, I move through your doubt. Remove the sign on the door to keep out. Hot blood, cold hand. Hot blood. As you breathe, she will move within, without. Like a river, she is with you, she runs out. Hot blood, cold hand. Hot blood, cold hand. Oggi è quasi impossibile immaginare che cosa significhi essere abituati a vivere in un paesino dove ogni abitazione aveva sempre la porta aperta, dove si giocava in strada e ci si divertiva pur non possedendo nessun giocattolo, ma sassi, bastoncini, foglie e cose simili che erano parte integrante dei nostri giochi. Dove all'ora di pranzo suonava la sirena della centrale idroelettrica ed era il segnale che ci avvisava dell'arrivo dei nostri papà e la tassativa necessità che noi bambini si fosse già in casa con le mani lavate e tutti in cucina in attesa di sedersi a tavola. Ecco, da un mondo così ristretto sono stata catapultata in collegio. Regole diverse, regole che non si potevano disattendere, suore che non avevano un gesto di amore nei confronti di nessuna. Ragazzine che, come me, venivano da realtà totalmente diverse, ragazzine timide, arroganti, dolci e prepotenti. E io, una di loro. Il collegio, adesso dire il collegio di una volta fa sorridere, anche un po' rabbrividire. Ci andava in collegio per il 2 ottobre, l'1 o 2 ottobre, quando iniziavano le scuole, perché loro iniziavano a ottobre, si veniva a casa a Natale, a Pasqua ed estate. Quindi la vita era il collegio, gonna lunga a pieghe, le suore erano adeguate al tempo, c'era tantissimo freddo, io mi ricordo il freddo ovunque, nelle le camerate erano grandi, nella camerata c'era uno spazio con le tende tirate che era della suora che ci curava anche di notte, perché no, non potevano permettersi certo di tenere la temperatura alta nei locali. E così è accaduto che una di queste ragazzine, di cui non ricordo né il nome né l'aspetto e con la quale molto probabilmente avevo litigato, mi ha sbattuto in faccia la verità. Verità che io non volevo assolutamente accettare, e l'ha fatta a voce alta. Ricordo che stavamo salendo dalle scale, la scena la vedo ancora sfocata, però ricordo che mi ha gridato: «Taci tu, che tua mamma è sempre ubriaca!» E così la mia rabbia e il mio dolore è stata la molla che mi ha spinto a usare la violenza per difendermi e difendere mia mamma. Mi sono scagliata contro quella ragazzina, gridando, cercando di colpirla in tutti i modi possibili. Ricordo solo che la suora è corsa a dividerci, che sono stata messa in punizione, che ho pianto tantissimo, ma che non ho mai detto una parola per difendermi da questo atto di violenza. Ricordo anche di aver passato giorni e giorni senza guardare in viso nessuna delle altre ragazze, perché mi sentivo in colpa sia per la verità sbattutami in faccia, sia per aver picchiato chi me la diceva. È stata la mia prima volta, che non si è mai più ripetuta. Io sono particolarmente affezionato alle storie come quella che abbiamo raccontato adesso di Lalla, perché sono storie che mia nonna avrebbe detto sono storie raccontate con il cuore in mano, cioè sono storie per le quali chi le racconta non ha timore di raccontare delle vulnerabilità proprie e della propria famiglia, e per questo motivo sono storie che hanno un tasso di umanità altissimo. Pronto Lalla, buongiorno. Ciao Matteo, ciao a tutti. Come va, tutto bene? Sì, benissimo, benissimo. Il Covid per ora non mi ha neppure lontanamente sfiorato, né me, né i miei figli, né i miei nipoti, quindi sto benissimo. Lalla, tu cosa fai nella vita? Allora, adesso sono pensionata, okay. Ma ho sempre lavorato nella grande distribuzione. Senti, veniamo alla tua storia. Io la prima cosa che voglio chiederti è, noi come sempre quando raccontiamo delle storie raccontiamo un episodio, un pezzo di tutta una vita, e quindi però attraverso quel pezzo vediamo molto, dipende da come sono scelti gli episodi. Nel tuo caso vediamo moltissimo della tua infanzia e un pezzettino della tua mamma. Ci racconti qualcosa di più? Che tipo era la tua mamma? La mia mamma la potrei definire morbida, fisicamente perché era cicciottella, ma morbida perché era proprio una mamma, nel senso ha provato a corrermi indietro con una ciabatta in mano, come tutte le mamme, Certo. È una mamma che cercava sempre di arginare le difficoltà con mio papà, nel senso, allora tutto va rapportato agli anni 50, 50, 55, 60, quindi un mondo completamente diverso da quello che abbiamo ora. Mio papà era una bravissima persona, ma era un padre padrone, era normale allora. La mia mamma faceva da cuscinetto fra lui e noi figli, quindi la mia mamma per me è la morbidezza, così la ricordo. Senti, tu quanti anni avevi quando l'hai mancata? Io ne avevo 18. Eri giovanissima. E vivevo in collegio a Sondrio. Come mai? È perché mio papà, per lavoro con la Falck, Acciaierie Ferriere Lombarde Falck, la mitica Falck, si spostava da un cantiere all'altro. Lui era un operaio, poi ha fatto carriera, era partito da operaio. Tieni conto che mio papà allora aveva la sesta elementare come diploma, quindi parliamo di un tempo che fu, che sembra lontanissimo, ma poi è a metà del Novecento. Certo. Quindi mio papà si spostava per lavoro e a un certo punto io, dovendo studiare, non potevo più spostarmi, andavo dove loro vivevano e solo durante le vacanze. Senti, invece di questo aspetto tu dici: in una parte nascosta di me io sapevo di questo vizio di mia mamma. Lo sapevi e lo accettavi, cercavi di non... Non volevo vederlo, ero troppo piccola, no, non, non potevo vederlo, non volevo vederlo, era la mia mamma, era la persona su cui io facevo affidamento per tutto, come tutti i bambini, credo. Quindi non potevo permettere a me stessa di ammettere il problema della mia mamma, non, anche se io ho provato a trovare i fiaschi di vino nascosti in casa, dietro, dentro un armadio, dietro altre cose, però non era nelle mie possibilità di accettare questo, non ce la faccio. Senti, il rapporto con lei è cambiato dopo questo episodio in collegio con la ragazzina che tu prendi a calci e pugni, letteralmente? Sì, letteralmente. No, è cambiato con me stessa, perché la rabbia sfogata, proprio la parola rabbia che la mia mamma avrebbe, mi avrebbe vietato di usare, perché la rabbia ce l'hanno solo i cani, questa rabbia tenuta dentro per tanto tempo, per anni, esplosa così in modo violento, mi ha reso consapevole. Senti, invece una cosa che c'entra poco, perché io so da Anita che mi, insomma, mi dice tutti i retroscena delle vite, delle storie degli ascoltatori, che tu sei vicepresidente di un'associazione qui a Milano che si chiama Amici del Monumentale. Esatto. Perché molti non lo sanno, ma il cimitero monumentale di Milano è un posto incantevole, meraviglioso. Cioè è di fatto un museo a cielo aperto. Ci racconti che cosa fate voi, Amici del Monumentale, così magari qualcuno, se è curioso, va a guardare. Allora, la nostra associazione è nata proprio con lo scopo di far conoscere, conoscere noi stessi prima di tutto, far conoscere, studiare la storia di Milano, che è poi la storia di ogni cimitero rispetto al posto dove è collocato. Anche il paesino di montagna ha un cimitero e il cimitero racconta la storia, racconta la storia, racconta la memoria, in questo caso di Milano. Poi Milano è speciale perché è forse il cimitero in assoluto più bello, ma non lo dico perché io ci sono affezionata, ma lo dicono quelli del Père Lachaise a Parigi, che così tanti monumenti, così tanti artisti, così tanti personaggi che si sono fatti rappresentare da fine 800 fino agli anni 50 del Novecento, non esiste da nessuna parte. Certo. È un posto. E voi cosa fate là? Allora, io personalmente, io personalmente faccio il database, cioè giro, adesso magari qualcuno si mette a ridere, tomba per tomba, e prendo nota di chi c'è seppellito, se c'è una scultura cerco l'autore, e prendo nota delle epigrafi, perché le epigrafi raccontano, basta solo saperle leggere. Poi per le persone che ci seguono facciamo delle passeggiate, non delle visite guidate, perché noi non siamo guide patentate, noi facciamo delle passeggiate in cui raccontiamo le opere, ma soprattutto le storie che sono collegate o al defunto, o alla famiglia del defunto, o all'artista stesso. E allora, se avete voglia per caso di farvi una gita all'aria aperta al Cimitero Monumentale di Milano, andate a cercarvi Amici del Monumentale su Facebook e trovate tutto. Lalla, intanto io ti ringrazio non solo per la ciceronata sul Monumentale, ma anche e soprattutto per la tua storia e per la chiacchierata. Ti faccio in bocca al lupo per tutto. Grazie a tutti. A presto. Anche ciao a Lalla, grazie buon mille. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Quoi que l'on dise, on restera solo. Quoi que l'on fasse, on restera solo. Solo, solo, solo, solo. Quoi que l'on dise, on restera solo. Quoi que l'on fasse, on restera solo. Solo, solo, solo, solo. Dès la naissance, on nous a promis monts et merveilles. À condition qu'on la ferme, qu'on oublie l'essentiel. À qui demander de l'aide à part au Père éternel? Le noir n'était pas une couleur de l'arc-en-ciel. Que Dieu m'éloigne du chemin de la vengeance. Le rendre dans la paresse est tentant. Dois-je crier pour qu'on m'entende? 6-0 années de l'indépendance. Que Dieu m'éloigne du chemin de la vengeance. Le rendre dans la paresse est tentant. Dois-je crier pour qu'on m'entende? 6-0 années de l'indépendance. Toujours devoir débattre, oh non. Toujours devoir se défendre, oh non, non. Se battre jusqu'à la muerte. Parce qu'on a trop de fierté. Toujours devoir débattre, oh non. Toujours devoir se défendre, oh non, non. Se battre jusqu'à la muerte. Parce qu'on a trop de fierté. Grazie a Lalla per la sua storia, grazie per la chiacchierata che ha fatto insieme a noi. Non è facilissimo raccontare storie come queste, è il motivo per cui siamo particolarmente grati quando arrivano, perché buttano una luce su situazioni che spesso sono semplicemente nascoste, coperte, o che chi le vive, anche per delle ragioni super ragionevoli, decide di tenere per sé. Quindi grazie ancora. Ora ascoltiamo Le Borse in diretta e poi torniamo a raccontare qui a Linee d'Ombra. Fineco, la banca numero uno in Italia nel trading, vi presenta Linee d'Ombra. Sono stati e sono ancora oggi dei giorni convulsi, quelli che si vivono negli Stati Uniti e che come una forma di eco arrivano fino a noi. Dopo la morte di George Floyd, le questioni di discriminazioni dovute al colore della pelle continuano ad essere molto presente là e appunto qui, anche qui in Italia, anche qui da noi. Ecco perché in una puntata che si intitola Discriminate, ora vogliamo raccontarvi la storia di un'altra donna. È una donna con la pelle nera, è una donna che un secolo prima della famosissima Rosa Parks aveva lottato semplicemente per avere un posto su un tram, proprio nella città di New York. State con noi. Domenica 16 luglio 1854, una giovane insegnante nera di nome Elizabeth Jennings era in ritardo. Si stava dirigendo verso la sua chiesa per la messa. Lei era l'organista e doveva prendere il tram sulla Third Avenue. Siamo a New York. Sebbene la schiavitù fosse stata abolita nel 1827, ben 27 anni prima, New York City era fortemente segnata dalle discriminazioni razziali. Il conducente del primo tram, in arrivo, quando aprì le porte, si rivolse a Jennings dicendole di aspettare il tram successivo, sostenendo che aveva dentro la sua gente. Elizabeth a quel punto rispose che lei non aveva della gente a cui apparteneva. Il secondo tram, che all'epoca era trainato da cavalli, era troppo pieno perché lei ci potesse salire a bordo, così salì sul primo e si rifiutò di scendere. Elizabeth Jennings, che divenne poi Elizabeth Jennings Graham quando si sposò nel 1860, compì questo gesto un secolo prima che a Montgomery, in Alabama, Rosa Parks, esattamente nel 1955, si rifiutasse di lasciare il suo posto a sedere ad una persona della pelle bianca. Elizabeth fece poi causa alla compagnia dei trasporti della città, avviando un processo di desegregazione razziale dei trasporti pubblici di New York. In un articolo del 1990 l'autore racconta ciò che si sa della sua vita e considera il motivo per cui non è mai stata meglio raccontata la sua storia all'interno della storia di discriminazione americana. L'autore ha cercato negli archivi dei giornali, nei rapporti dei censimenti, nelle registrazioni delle parole di Elizabeth per comporre un ritratto della sua vita, compreso quel giorno lì, quel giorno del 1854. Insomma, dopo aver chiesto di rimanere su quel tram, il conduttore del tram le disse: «Bene, signora, potete entrare, ma ricordate, se i passeggeri sollevano delle obiezioni, dovrete uscire». Elizabeth rispose che lei era una persona rispettabile, era nata e cresciuta a New York, aveva un lavoro e lui si stava dimostrando un buono a nulla dal momento che stava insultando proprio una persona di tale rispetto che stava semplicemente andando in chiesa. Questa frase aveva fatto inalberare il conduttore del tram, che cercò di spingerla fuori, anche se lei si era aggrappata all'anta del finestrino proprio per evitare di cadere. A questo punto il conduttore dei cavalli scese dalla sua carrozza e si unì al tranviere, racconta Elizabeth. Poi entrambi mi afferrarono per le braccia, mi tirarono e mi trascinarono a terra, sul marciapiede. Io urlai che mi stavano uccidendo, con tutta la mia voce, e l'amica che era con me gridò: «La ucciderete, non fatelo!» L'autista mi lasciò andare, tornò ai suoi cavalli. Io risalii di nuovo sul tram. Il tranviere disse al conducente dei cavalli di guidare il più velocemente possibile, di non fare salire nessun altro, di guidare fino a quando non avesse visto un ufficiale o una stazione di polizia. L'agente di polizia che incontrarono sulla strada spinse Elizabeth fuori dal tram, sporcandole l'abito e dicendole in modo provocatorio di chiedere un risarcimento se avesse voluto. Il suo caso venne presto portato in tribunale, preso in carico da un giovane giudice, il 24enne Chester Arthur, futuro 21esimo presidente degli Stati Uniti. Quella che era iniziata come la protesta individuale di una donna era diventata una class action sociale. Nel febbraio del 1855 le furono riconosciuti $225 di risarcimento danni. Inoltre, la Corte Suprema dello Stato di New York stabilì che gli afroamericani non potevano essere esclusi dal transito a condizione che fossero sobri, ben educati e liberi da malattie. La totale desegregazione razziale dei trasporti newyorkesi ha infatti richiesto anni. Ispirato dall'esito del caso di Elizabeth, il reverendo Pennington, nato schiavo nel Maryland ma ormai libero e pastore della Presbyterian Church di Shiloh, nel 1855 aveva fatto un sermone in cui osservava che i neri non potevano più essere limitati nelle strutture di transito pubblico. Appena poche settimane dopo, Pennington fu espulso da un tram a cavalli della Sixth Avenue. Elizabeth lavorò come insegnante fino agli anni 60 del XIX secolo. Poi, nel 1895, fondò il primo asilo nido per bambini afroamericani a New York, nella sua casa sulla 41esima strada Ovest. Morì il 5 giugno del 1901. Le pratiche apertamente discriminatorie nel settore dei trasporti pubblici si conclusero a New York dopo che il legislatore dello Stato approvò il Civil Rights Act del 1875. Elizabeth Jennings, se non altro perché ha iniziato qualcosa di molto più grande di lei e ha gettato le basi per gli ulteriori progressi che sarebbero poi venuti, merita un posto d'onore nella storia dei diritti civili a New York e negli Stati Uniti. Vicino a dove l'episodio del tram è accaduto, c'è un riconoscimento pubblico della sua eredità. Nel 2007 è stato installato un cartello stradale a Spruce Street e Park Row, ribattezzando quest'angolo di Manhattan Elizabeth Jennings Place. I wish I knew how it would feel to be free. I wish I could break all the chains holding me. I wish I could say all the things that I should say. Say I'm loud, say I'm clear, for the whole round world to hear. I wish I could share all the love that's in my heart. Remove all the bars that keep us apart. I wish you could know what it means to be me. Then you'd see and agree that every man should be free. La storia di Elizabeth Jennings l'abbiamo raccontata apposta, ovviamente, di proposito in questo periodo. L'abbiamo trovata su un magazine che si chiama J-Store Daily, che è un magazine che appunto racconta delle storie legate a dei fatti di attualità. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare qui a Linea d'Ombra. Ascolta, è il momento di riaccendere i motori. Con Iveco Daily ripartire è più facile. Bastano poche semplici mosse. Scegli subito il daily più adatto a te, lo ritiri e inizi a pagarlo tra 6 mesi. Nuovo daily, cambia prospettiva al tuo business e riparti con Iveco. Richiedi un preventivo alla tua concessionaria o chiama l'800 800 288, o visita il sito iveco.it. Offerta valida fino al 31 luglio. Fogli informativi e condizioni presso le concessionarie aderenti e salvo approvazione Iveco Capital. Iveco, l'Italia che vince. Digli di comprarsi un daily. Linee d'ombra. Ieri qui a Linee d'ombra abbiamo cominciato una nuova storia seriale. Abbiamo cominciato a partire ovviamente dal primo episodio ed è una di quelle storie su cui si potrebbero fare probabilmente dei film, degli sceneggiati televisivi a puntate. È la storia di una figlia che a 4 anni vede suo padre ucciso dalla mafia. La figlia si chiama Antonina Zoti, oggi è una donna adulta, ma all'epoca aveva 4 anni, parliamo degli anni subito dopo il secondo dopoguerra. Siamo in Sicilia e suo papà è un sindacalista che lotta per i contadini, lotta per il bene della gente, lotta per la redistribuzione della terra. Quello è un atto che non deve accadere e nella Sicilia di quell'epoca è un atto che di fatto rappresenta uno sgarro nei confronti della mafia. Lei ha Mauro Pescio, che come sempre ha composto questa storia, che l'ha contattata in questi giorni e se l'è fatta raccontare. Lei dice: erano pietraie, erano terre, non erano terre importanti, ma era una questione culturale. Era il fatto che i contadini, che le persone potessero alzare la testa e potessero chiedere qualcosa che non gli veniva semplicemente dato. Ecco, è un tema culturale quello che riguarda questa storia, ma è anche e soprattutto la storia di una bimba che cresce senza il padre. Lei questa storia l'ha già raccontata, l'ha raccontata in un diario che poi è stato consegnato all'archivio dei diari di Pieve Santo Stefano, con cui ricordiamo la collaborazione, che ringraziamo per i contatti e che ringraziamo per i racconti che da anni ci fanno e ci permettono di fare. È diventato un libro, la storia di Antonina Zoti, che si chiama Ad alta voce, il riscatto della memoria in terra di mafia, pubblicato La Terra di Mezzo. E sì, perché non è solo la storia di un omicidio questo, è la storia di un omicidio che getta fango e vergogna su un'intera famiglia, fino a che un giorno Antonina avrà il coraggio di prendere un microfono e di dire: mio padre non è solo un morto ammazzato, mio padre non ha la vergogna addosso, e noi di conseguenza non dobbiamo avere quella vergogna addosso, perché è stato un uomo ucciso dalla mafia. Mio padre era un uomo giusto che è stato ucciso perché la mafia è criminale, che sembra scontato da dire, ma evidentemente non è così. Continuiamo e ripartiamo questa storia da là. Tra pochissimo torniamo a raccontare la storia di Antonina. Avrà 4 anni e saremo nella Sicilia del 1946. Grooving, steady grooving, dirty lover on my mind. understand. Lo shock è stato talmente grande, talmente, come ti posso dire, mi ha penetrato l'anima, sicché io da quel momento ricordo assolutamente tutto, e non ho dimenticato niente. Quella sera era una serata molto particolare, perché avevo scoperto che la vecchia Natala, la Befana, mi avrebbe regalato per quel Natale ormai imminente un cappottino rosso, e l'avevo capito quando papà, che ci aveva dato la buonanotte, uscendo dalla stanza dove io e mio fratello già eravamo stati messi a letto, si era messo a parlare con la mamma, sollecitandola a finire di confezionare quel cappottino rosso. E dicevo alla mamma, Mimì, ma quando l'ho finito sto cappottino? Natale è caro. E la mamma diceva, sto finendo, non ti preoccupare. Salutò anche mamma e papà uscì e andò alla camera del lavoro come tutte le sere lui faceva. Io finsi di non capire e di non sapere, custodì quel segreto tenendolo tutto per me, senza condividerlo neppure con mio fratello Pinuccio, ma solo per poco. Mamma venne a darci il bacio della buonanotte, io aspettai che lei uscisse dalla stanza e confidai a Pinuccio quello che avevo scoperto. Per me il cappottino rosso, gli dissi, per te il baschetto blu. E per dimostrargli che stavo dicendo la verità, lo tirai per la mano invitandolo a spiare dalla fessura della porta socchiusa. Mamma era di spalle, sotto la lampada, tra le mani aveva il mio cappottino rosso, cuciva e aspettava il rientro di papà, che come tutte le sere si era recato alla camera del lavoro. Tornammo a letto molto felici. Dormivamo io nel lettone e lui nel lettino che papà gli aveva costruito quando era nato. A un certo momento io mi ero addormentata, non so quanto tempo fosse passato, e fui svegliata e mi trovai così seduta in mezzo al letto, svegliata dalle grida della mamma che, accorata, diceva «Cola, che ti fecero?». È una voce non lontana, irriconoscibile però, poco distante ma irriconoscibile, diceva «Mimì, mi spararo». Era, come dicevamo prima, appunto il 21 dicembre del 46, e da quella notte ha inizio per noi una tragedia. Quello è il primo atto di una tragedia senza fine, una tragedia che ci ha accompagnati per tutta la vita. Papà in viso era pallido, era ferito e affaticato. Raggiunse casa sorretto dalla mamma, si abbandonò sanguinante sul letto, il letto dove io stavo dormendo. La casa si affollò di vicini e parenti, arrivarono pure i carabinieri. Tremavo di freddo e di paura, accartocciata di fianco alla porta. Qualcuno, imbattendosi contro due piedini, si era accorto di me e, sollevandomi da terra, mi cacciò dentro il lettino con mio fratello. Lui non si era mosso. Si guardava attorno con gli occhi sbarrati. Gli passai le mani sotto le braccia. Ci abbracciammo stretti, diventando più piccoli di quanto già non fossimo. La gente ci impediva di guardare oltre la sponda del lettino. Papà venne trasportato in ospedale, dove dopo due giorni sarebbe morto. Prima però ebbe la forza di fare il nome del mandante, che qualche settimana prima lo aveva minacciato, quando papà, con regolare decreto prefettizio, si era recato sul feudo con gli altri contadini per prendere possesso delle terre assegnate alla cooperativa San Marco, che lui aveva cofondato. Il gabellotto incurante del decreto gli disse «Sta attento, Nicola, a quello che fai, perché la pagherai». E papà pagò con quei 5 colpi di pistola alle spalle mentre tornava a casa quella notte dalla camera del lavoro. Grazie ad Antonina Zotti per questa storia, grazie a Mauro che la racconta, grazie a tutti quelli che ascoltano questo programma e continuano a mandarci le loro storie di confine, le loro storie di linea d'ombra. Linea d'ombra @radio24.it è l'indirizzo per mandarcelo, continuate a mandarlo, continuate a mandarli durante tutta l'estate, perché durante l'estate raccoglieremo tutte le vostre storie per ripartire poi con la prossima stagione. Io ringrazio chi fa questo programma, Anita Panizza, Paolo Corleoni, Mauro Pescio, Luca Micheli, lascio la linea al GR e noi torniamo domani puntualissimi a raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!